Ragnatele ovunque intorno a noi e polvere sui tuoi pensieri ormai, finché si lava non uscirà comunicazione priva del suo senso, sei tormento per te, sempre quello, la teoria del non per non sbagliare. Che posso fare io nella tua mente? Io non posso entrare, hai chiuso la porta e buttato via la chiave. È un gran bel gioco di parole, eppure credo siano tutte vere. È un gran bel modo di vedere il non provare. Sai se aprirti o rimanere chiusa, la sicurezza sta nel non rischiare, il non soffrire sta nel non provare. Eppure tu mi dici che hai paura, che hai vergogna e non ti lasci andare, tu l'amore non vuoi fare entrare, pensieri dannosi alla tua fantasia, razionalità che porta via l'istinto e il desiderio. Che vuoi che faccia io nella tua mente? Io non posso entrare, dammi la tua chiave, non cambiare la serratura. È un gran bel gioco di parole, eppure credo siano tutte vere. È un gran bel modo di vedere il non provare. Fanno sentire e non solo ti sogni, ricordi ti fa raccontare. È un gran bel gioco di parole, eppure credo siano tutte vere. È un gran bel cuce.